Allora, questo weekend si è tenuto un incontro femminista a Pestum e adesso chiameremo due compagne che ci sono andate in modo di avere due voci che ci raccontano un po' l'evento. Funciones, que papel nunca apareciera, ni en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra mi memoria, ni mi orgullo. E allora, ciao. Allo, ciao. Ciao, ti senti? Ciao. Sì, sì, mi sento bene. E quindi niente, stavamo dicendo appunto che lo scorso fine settimana c'è stato questo incontro a Pestum a cui tu con altre compagne di Bologna, dopo sentiremo anche un'altra voce, hai partecipato, e quindi intanto se ci vuoi raccontare un po' di che si trattava. Sì, certo. Allora, fare una restituzione è abbastanza complesso perché insomma sono stati due giorni molto intensi di lavori in cui c'è stata una prima parte di plenaria collettiva dove ogni donna a partire da sé ha fatto un intervento di 5 minuti, e quindi diciamo anche il lavoro di riportare tutti gli interventi è un po' difficile, i contenuti così anche sono stati insomma molto complessi in un qualche modo. Poi il giorno dopo ci siamo divise in tavoli, 10 tavoli, e io ho partecipato in particolare al tavolo sulla violenza, sessualità e amore, e da lì insomma siamo riuscite ad approfondire un po' di più la questione. E, sì, diciamo che in questo tavolo c'erano molti centri antiviolenza, c'era la rete Dire. E loro hanno portato il loro intervento, il loro contributo rispetto diciamo a 25 anni di lavoro che fanno con le donne maltrattate, e hanno posto anche il tema sul fatto che molte donne ormai vengono considerate come degli utenti, e questa cosa ovviamente non giova rispetto a tutta la questione della violenza e di come affrontarla in generale. E poi da un'altra parte, da altre compagne, è stata posta la questione sul decreto del femminicidio, diciamo, chiedendo a tutta l'assemblea di portare questa questione di questo decreto che viene votato martedì e che di fatto renderà molto più difficile tutta quanta la diciamo la questione. E poi di fatto c'erano altre compagne che invece dicevano no, che non bisogna legiferare sulla violenza e che è inutile intervenire in questa questione perché sul corpo delle donne non si legifera, insomma. Quindi diciamo che i contenuti sono stati tanti, però le proposte fatte non sono state accolte in un qualche modo, ed è stato un grande panorama di presentarsi e di partire da sé, ma senza nessun obiettivo di organizzazione fondamentalmente. Senti, c'erano molte donne in generale a questo incontro? Parlo sì, le donne in generale, erano sicuramente tantissime, eravamo circa 600, ma non so, è un numero stimato così, io non sono riuscita a stare fino alla fine, però diciamo che le donne erano tante, le proposte tantissime, si partivano dai temi della genealogia, da una rivoluzione necessaria, ontologica, però diciamo tutto molto a livello teorico, e infatti la parola convegno secondo me dà un po' il segno di questo incontro, così. Senti, se non sbaglio è il secondo anno di seguito che viene fatto questo convegno, questo incontro, e come dire, alla prima edizione una delle critiche che insomma in molti occasioni ho sentito porgere a questo incontro è che si trattava di un appunto di un'organizzazione molto vicina alle istituzioni, diciamo, senza grande spazio per l'auto-organizzazione delle femministe. Non so se ti sembra, insomma, tu che ci sei stata, se hai riscontrato che questa critica fosse reale. Sì, io penso che questa critica, dal mio punto di vista soggettivo, ovviamente è reale, perché di fatto sì, le partecipanti erano molte provenienti dai partiti, da SEL, ci sono state le donne dell'UDI, magistrate, avvocati, psicanaliste, molte libere professioniste, insomma. Poi c'è stato un intervento del collettivo S9, che è un collettivo che si era costituito l'anno prima a Pestum. È stato un intervento molto forte, che è stato di fatto il frutto dell'elaborazione di un anno di lavoro che loro hanno fatto. Si sono presentate sul palco in 10, hanno aperto uno striscione con scritto stato di eccitazione permanente, e hanno letto un manifesto molto forte sulla precarietà, sulla condizione delle giovani, così, sulle condizioni di lavoro, sulle condizioni della sessualità, della tratta degli migranti, insomma, un documento molto molto denso, che però non è stato accolto perché il loro intervento è stato definito come militare, oppure come una presa di palco, così. E invece loro dicono: no, noi abbiamo restituito la gioia di un anno di lavoro, però questa cosa in parte non è stata capita, perché loro avevano già preparato il discorso, l'intervento, e invece lì si diceva che bisognava partire da sé e scrivere e vedere come evolveva l'assemblea, insomma. Quindi di fatto c'erano donne cosa... migranti? C'erano, scusa? Donne migranti c'erano a questo? Donne migranti, allora, di intervento di una donna migrante ce n'è stato uno, e penso che forse due donne migranti in tutto. E di fatto però non mi ricordo bene di quale gruppo facesse parte, però lei diceva: ah, bisogna tirarsi il naso e però partecipare e fare politica, insomma. Però mi sembra molto istituzionale anche lei. Ma quindi, come dire, la tematica dell'intreccio tra la, diciamo, della ragnatela delle oppressioni, del leggere la realtà attraverso non soltanto, diciamo, la categoria di genere, ma anche appunto con l'intreccio del razzismo oltre al sessismo, tu l'hai trovato, oppure era, come dire, perché da quello che racconti sembra un po' un femminismo, come dire, molto bianco, eterosessuale, senza una lettura di classe? Questo io sento dalle tue parole. Sì, allora, che fosse bianco sicuramente, senza ombra di dubbio, perché sì, appunto, l'unica compagna migrante ha fatto questo intervento che mi è sembrato, sì, da dentro una istituzione. Eterosessuale pure, perché la parola lesbica è stata nominata solo una volta da questo collettivo F9, che poi è stato contestato, solo quando si sono presentate: siamo femministe lesbiche, e poi di fatto non è, in due giorni non è mai stata portata avanti questa tematica della violenza contro le donne, insomma, anche nell'ultimo decreto sull'omofobia, così. La classe sicuramente media borghese, da quello che mi risulta dal luogo in sé, cioè l'hotel Ariston, ovviamente un luogo che io ad esempio potrei vedere solo al cinema, che poi ho potuto vedere lì a Pestum perché le compagne hanno organizzato una festa per autofinanziare questa partecipazione, insomma. Però sì, un livello medio borghese sicuramente. Sì, con la mancanza proprio di una partecipazione dal basso di donne, a parte queste compagne giovani precari, che però erano definite, cioè le altre le definivano come ingabbiate in questa cosa, quando invece bisognava partire da sé, partire, riconoscere il lavoro delle femministe storiche e così, insomma. Quindi questa cosa è mancata sicuramente. E se non vuoi aggiungere altro? Sì. Sì, va bene, non lo so, mi viene in mente l'unica cosa, perché io, vabbè, così alla fine dell'assemblea non ce la facevo più a seguire tutti gli interventi, e sono andata a visitare i templi di Paestum e ho visto c'era al museo la Venere di Paestum e la sua targhetta era segnalata come questa statuetta veniva usata per i riti di fecondità maschile e la fertilità della terra, insomma. Diciamo che anche a Paestum le veneri, cioè le statuette delle dee, insomma, che così sono di donne, sono descritte come statuette per la fecondità maschile, insomma. Vabbè, una nota così di colore. Che ci riporta sempre coi piedi per terra, insomma. Esatto, un po' per terra e un po' con la tristezza del patriarcato che abbiamo su tutte le teste, insomma. Ti ringraziamo molto per questa tua restituzione. Niente. Va bene, grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Todavía no estáis quemando. Me estoy tiñendo toda la ropa de tu lado. Soy la cocinera de tu mejor plato. Deja que te empape con lo que yo me empapo. Toda aquí siendo. Me den lo que me quitan, no dan huevos de oro, todas las gallinitas. Si la vida no me son dos días, la hago cosquillita. Poco aguantan, no están preparados, no entienden. Cuando ya pasan, te vas harta de lo que has deseado. Te come pescado, pero nunca ve los buenos resultados. Todavía no estáis quemados, yo me estoy tiñendo toda la ropa de dorado. Amor, entre morado y morado. Que disculpa, cuando llega ya no quiere más así apaleado. Saben que tengo el cañón guardado y las estrellas y la luna de mi lado. Si te han pegado, vete y disfruta del olor de mi estofado. Soy la cocinera de tus mejores platos. Deja que te empape con lo que yo me empapo. Hoy aquí siempre. E dunque abbiamo con noi un'altra compagna che è andata a Paestum e che ci racconterà lei il suo vissuto lì. Ci senti? Pronto? Sì, mi sento, un pochino piano perché come dicevo anche all'altra compagna sono nel bagno di un locale pubblico, tra l'altro mi sembra di capire che sono in un bagno maschile, però vi sento. Benissimo. E, vado? Vai. Vi racconto un po'. Allora, in realtà io sono stata a Paestum anche quest'anno, c'ero stata lo scorso anno. Per me l'incontro di Paestum dell'anno scorso, che avevo acchiappato un po' per caso alla fine, per cui non ero andata particolarmente motivata, è stato invece un evento particolarmente dirompente. È stato molto forte perché appunto l'anno scorso eravamo 1000 donne circa nel cuore del Sud Italia, per cui un evento piuttosto raro. Probabilmente il dato inedito l'aveva reso così. Questo è un bagno maschile, mi scusi? No. Ah, ok. Dopodiché, scusate, Prego. Io sono. No, non ho bisogno. E per cui, insomma, era stato un evento piuttosto dirompente. Quest'anno lo è stato un po' meno, anche se per me avere l'occasione di incontrare tante donne nel cuore del Sud, ripeto, è un'occasione che non va persa. Lo spessore politico dell'incontro secondo me consisteva principalmente nel fatto, in questa modalità di incontro, che è una modalità che non prevede relatrici, non prevede interventi preparati in inizio, ma è appunto un'occasione per riflettere in presenza, per parlare in presenza insieme ad altre donne, e quindi molto basata sull'ascolto e sulla produzione di pensiero in tempo reale, ovviamente senza rimuovere tutto quello che c'era, insomma, precedentemente. è un incontro tra l'altro che non produce documenti finali. Questo secondo me è meraviglioso, perché solleva dall'ansia la prestazione di piattaforme e quant'altro, però radica in qualche misura il sentire che poi insomma muoverà, come dire, l'azione e la pratica. Attiva molto sui singoli gruppi, sulle singole donne che poi riescono insomma a mettere in circolazione e a creare pensiero collettivo indirizzato insomma al bene di tutte, banalmente. Questo è un po' quello che posso dire. Quest'anno la differenza è stata che, mentre l'anno scorso era un po' un revival rispetto a quello che era stato il grande incontro femminista Pestum del, quest'anno del 36esimo anniversario, quindi fate voi i calcoli, a differenza dello scorso anno, che quindi era stato principalmente promosso dalle femministe cosiddette storiche, quest'anno c'è stata una sorta di passaggio di testimone, per cui sono state, diciamo, le donne giovani ad organizzarlo e a metterlo in piedi, perché c'è stato un po' questo dato, c'è stata una sorta di attrito, fra virgolette, generazionale già dallo scorso anno, che però in qualche misura si è sciolto, e anche in una sorta di passaggio di testimone, anche se fortunatamente le nostre compagne di grado sono ancora in vita, però sì, praticamente è stato passato il testimone alle ragazze giovani che avevano rivendicato una certa marginalità, per cui è stato detto: ok, prendete in mano tutto voi, strutturate l'incontro, date le priorità, che non era un tirarsi indietro da parte delle compagne più grandi. Personalmente io, che sono una femminista di mezzo, cioè né riconducibile alle femministe storiche né alle più giovani, sono abbastanza critica, perché io ritengo che il dato generazionale non sia così importante, e anzi possa essere un po' rischioso in un sistema sociale dove c'è continua divisione creata fra donne giovani e donne meno giovani, o cosiddette vecchie. Mi sembrava in qualche misura di riproporre, anche senza troppa consapevolezza, insomma, questa divisione. Però poi insomma mi sono dovuta ricredere, perché questo passaggio di testimone vuol dire comunque anche assunzione di responsabilità da parte delle più giovani, e insomma una sorta di messa in gioco. Okay. Non so cos'altro dire, non so se avete qualcosa nello specifico da chiedermi. Senti, ti faccio una domanda, perché si sono sentite e anche lette delle critiche insomma a questo Pestum, sia l'anno scorso che quest'anno. E cioè, come dire, una lettura di un incontro di un femminismo che però è un femminismo bianco, eterosessuale. Puoi alzare per gentilezza la voce, perché mi sfugge, ormai mi sta sfuggendo la sua voce. Stavo dicendo che le critiche, mi senti adesso? Adesso ti sento meglio. Che le critiche che sono state fatte a questo incontro, sia l'anno scorso che quest'anno durante la preparazione, diciamo, è che si tratti di un femminismo bianco, eterosessuale, senza una lettura di classe. Tu che ci sei stata, come la ti ritrovi in questa critica, o pensi che sia assolutamente no. Assolutamente no, nel senso che io stesso vengo da un femminismo di base, autogestito, auto-organizzato, che anche come provenienza di classe, evidentemente, insomma, non un femminismo borghese, cioè, nella misura in cui si rincontrano 1800 donne, e soprattutto molto più presente il sud di quanto non sia mai stato in nessun incontro nazionale, io ritengo che sia abbastanza, come dire, pregiudiziale questo tipo di analisi. C'è sicuramente una varietà di punti di vista vastissima, perché se all'interno dei nostri piccoli gruppi abbiamo già varietà di pensiero, potete immaginare quanta varietà sia di pensiero che di provenienza sociale possa esserci all'interno di un incontro di 500-600 persone, 600 donne. Per cui non ritengo. Per ciò che concerne l'altro elemento, era il femminismo rispetto alle tematiche bianco, del sì. Bianco. Allora, se noi non siamo in grado ancora di tessere relazioni significative con con le donne provenienti da altri paesi. Questo è attribuibile un po' a tutte e avrà delle radici che andranno ricercate indubbiamente, e soprattutto sono del parere che non sia assolutamente corretto come femministe appunto presenti là portare la questione migrante, perché io sono del parere che le questioni vanno portate nella misura in cui esistono all'interno dei contesti. Io non parlo per le prostitute, io non parlo per le immigrate, io non parlo per le nere, cioè io parlo per me, e mi piacerebbe molto che venissero le nere, le prostitute e quant'altro a portare la loro posizione. Per ciò che concerne il femminismo bianco e transessuale, ma penso che più del 50% delle donne presenti là fossero lesbiche, se non hanno ritenuto di dover sollevare la questione, la visibilità lesbica, non lo so, andranno interrogati un po' loro. Però sai, bisogna vedere se bisogna vedere se le lesbiche presenti come vivono il proprio lesbismo, se come opzione politica appunto, o come scelta sessuale. Io la questione della visibilità lesbica, certo, che pure l'ho praticata e la ritengo essenziale come spinta all'autonomia verso tutte le donne, saranno pure le lesbiche a doverla sollevare. Che le lesbiche ci fossero lì è un dato incontestabile, come dire, incontestabile per chiunque. Perché non abbiano sollevato la questione della visibilità lesbica nello specifico andrebbe chiesto a loro, ma erano tantissime, più della metà del convegno erano donne lesbiche, erano lesbiche. Senti, per Franca, cui, cioè, penso che bisogna centrare le critiche, nel senso che alla fine, cioè, è essenziale che le questioni vengano poste da chi ritiene importanti che siano presenti le questioni, no? Certo. A me sembra un po', come dire, io ti ripeto, è tantissimi anni che con i nostri gruppi si sono nominati come lesbiche, perché abbiamo imparato quanto fosse importante politicamente la visibilità lesbica e la scelta lesbica cosciente per l'autonomia di tutte le donne, però se le lesbiche stesse non lo portano, a me sembra una forzatura, che cioè le questioni esistono. Guarda, nel momento Franca, che vengono portate. Pronto? Da chi è là. Pronto, Franca? Pronto? Sì? No, scusa, perché è un argomento molto ampio e io lo continuerei volentieri con te un altro luogo, è solo che adesso come è l'ora del giornale pubblico, sì. E dunque comunque queste questioni sono ampie e importanti per comunque tutte le lotte femministe, e veramente grazie di aver dato il tuo punto di vista. Noi purtroppo dobbiamo lasciarti per lasciare okay. La Okay. Ti ringrazio, sei Silvi? Sì. Oh, ciao Silvi. Ciao. Per cui sì, saluto tutte. È il mio punto di vista individuale, perché ancora non sì. Abbiamo avuto okay. Una riflessione collettiva e niente, secondo me comunque è stato un evento, tra virgolette, evento notevole. Okay. Sono contenta di averci partecipato. Ci sarà ovviamente modo di riparlarne. Sì. Grazie a voi. Grazie, per aver sentito grazie, ciao. Anche il mio parere. Vi saluto.